Allora eccoci, eccoci. Dunque, eccoci a tutti, dal ciao Viminale. A tutti e a tutte, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, bene. Siamo qui davanti al Viminale, poi si terrà la conferenza stampa appunto che vede coinvolto Mark Hovell, il giornalista che fu brutalmente massacrato nel lontano luglio del 2001. E oggi, dopo 11 anni, appunto, è stato ottenuto il risarcimento di 350.000 euro. E niente, qui con noi l'avvocato che ha difeso appunto Mark Hovell. Un attimo, sì, ci rileviamo che qui c'è tutta la stampa, quindi cerchiamo di trovare un angolo tranquillo. E niente, io passerei la parola all'avvocato che magari ci dirà due cose, sia riguardo alla conferenza stampa, quali saranno i principali temi di cui si parlerà, e magari possiamo chiedere anche che cosa comporta questo, diciamo, risarcimento dal punto di vista legale. Certo. Passo la parola all'avvocato. Sì, ciao, grazie. A dopo. Ciao. Sì, pronto. Pronto, salve, buongiorno. Sì, allora comincio io subito direttamente dall'ultima questione che veniva posta, cioè la firma di oggi viene all'esito di una trattativa che si è instaurata dopo che abbiamo iniziato la causa contro il Ministero dell'Interno per il pestaggio, causa civile, per il pestaggio di Mark Hovell, ed è una transazione, come si dice, omnia, nel senso che con questo risarcimento che è di 350.000 euro complessivi, ovviamente Hovell rinuncia a portare avanti l'azione che ha già intrapreso ed eventuali altre per quanto accaduto. Per quanto riguarda la conferenza stampa di oggi, vi posso anticipare quello che Mark sta dicendo adesso anche ad altri giornalisti, e cioè da una parte ovviamente che è molto soddisfatto di aver raggiunto questo risultato e del fatto che il Ministero dell'Interno alla fine abbia ammesso le proprie responsabilità autorizzando la transazione, che fa una sorta di appello al Ministro dell'Interno perché apra un tavolo di trattativa con tutte le altre vittime sia della Diaz sia di Bolfareto per arrivare se possibile, per chi interessa insomma, ad un risarcimento dei danni senza dover passare attraverso la via giudiziale. Il terzo punto di cui sta parlando è il fatto che è ritornata in commissione il disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura, che quindi invece ovviamente una delle richieste che fa è quella che l'Italia, ottemperando alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura, introduce questo reato. E l'ultima richiesta è quella di dimissione di De Gennaro, che lui motiva ovviamente con il fatto che, essendo capo della polizia a quell'epoca, a maggior ragione dopo il deposito delle motivazioni della sentenza della Cassazione, dovrebbe assumersi le responsabilità che gli derivavano comunque da quel ruolo e dimettersi anche per salvare a livello internazionale l'immagine della polizia italiana. Queste sono le quattro questioni principali di cui si sta discutendo in una conferenza stampa. Bene, bene, bene, insomma non fa una grinza, si tratta di punti assolutamente insomma condivisibili, a maggior ragione dal punto di vista di chi ha rischiato di pagare con la vita insomma le violenze di quella sera. Avvocato, commentavamo prima con l'avvocato Francesco Romeo del fatto che comunque ancora non sono emerse responsabilità individuali specifiche riguardo proprio l'identità degli agenti insomma che massacrarono Mark quella sera. No, infatti è per questo motivo che perché la posizione di Mark è diversa da quelle degli altri, delle parti civili del processo Diaz, per il fatto che, essendo avvenuto al di fuori della scuola il pestaggio, la Procura della Repubblica aveva stralciato la sua posizione per quanto riguarda le lesioni e aperto un procedimento a carico di ignoti per tentato omicidio. Non si è mai arrivati all'individuazione dei responsabili, la Procura ha chiesto l'archiviazione, peraltro il GIP di Genova non ha ancora deciso, e ha chiesto l'archiviazione con un atto che è in realtà un atto d'accusa nei confronti dello Stato italiano, del Ministero dell'Interno in particolare, per non aver assolutamente collaborato nelle indagini, che ha impedito di arrivare all'individuazione degli agenti che hanno massacrato Kovel. E dall'altra parte però vengono indicati nominativamente tutta una serie di funzionari che sono poi gli stessi fondamentalmente che sono stati condannati nel processo Diaz, in quanto vi sono le prove del fatto che la maggior parte di loro erano presenti quando è avvenuto il pestaggio, erano comunque nelle vicinanze del cancello della Diaz, quindi presumibilmente hanno visto, se non tutti, almeno qualcuno, e non sono intervenuti per fermare il massacro. Il problema evidenziato dalla Procura è che non è possibile stabilire con certezza chi di questi funzionari ha effettivamente assistito al pestaggio, comunque ne ha avuto la percezione, perché altrimenti sarebbe stato mandato a giudizio per gli stessi motivi per cui sono stati condannati i Canterini e i capisquadra del settimo nucleo, e cioè comunque per non essere intervenuti quando avevano l'obbligo di farlo per fermare un delitto. Senta, avvocato, che tipo di attenzione c'è da parte dei media? Cioè c'è la presenza, insomma, questo ci può anche dare un po' il termometro di quanto quantomeno presso gli organi di stampa ancora questa storia riscuote attenzione. C'è movimento, insomma, in questa conferenza stampa o no? Ma dunque, la conferenza stampa sconta un po' forse non tanto disinteresse quanto qualche problema organizzativo che abbiamo avuto noi come legali, dovuto anche al fatto che solo ieri sera abbiamo saputo dove effettivamente dovevamo recarci per firmare questa transazione. Noi pensavamo che fosse nel Palazzo del Viminale e invece poi era in un altro ufficio che è quello della ex caserma della Celere di Roma, che non è più destinata a questo scopo, e questo l'abbiamo saputo solo ieri sera, quindi probabilmente anche qualche giornalista che era qua presente a un certo punto se n'è andato perché noi non arrivavamo e le cose sono andate un po' più per le lunghe rispetto al previsto, però di attenzione mi sembra che ce ne sia abbastanza, anche per le telefonate che abbiamo ricevuto, e credo che la coincidenza con il deposito della sentenza di Cassazione ovviamente in qualche modo aumenti anche l'attenzione rispetto al caso di Marte. Assolutamente, dunque anche da quello che ha fatto emergere, cioè il fatto, i punti, insomma, articolando un po' i punti che intende sollevare Marco alla conferenza stampa, si può chiaramente vincere quanto la sua così voglia di ottenere giustizia non si è esaurita e credo che non si esaurirà, insomma, con la giornata di oggi. Ecco, questo no, senz'altro. Sicuramente Mark è soddisfatto per la soluzione del suo caso individuale, ma è qua non solo per quello, ma perché vuole comunque rilanciare e soprattutto tiene a sottolineare il fatto che questo non deve essere il primo caso in cui si arriva ad una transazione, ma non deve assolutamente essere il primo, anzi il Ministero dovrebbe, appunto, a maggior ragione per dopo quello che abbiamo detto delle motivazioni della sentenza della Cassazione, aprire immediatamente un tavolo e invitare le vittime, insomma, a chiedere il risarcimento e discuterne i termini. Va bene. Allora, avvocato, noi la ringraziamo, è stato gentile a intervenire qui e davvero grazie, buona giornata. Vi saluto, buon lavoro, grazie. Arrivederci. Grazie.